degli altri. Ho nascosto le pieghe del nostro cuscino perché tu non possa annoiarti. Ho rubato l'odore dai sensi, ti ho sentito col naso che menti. Ho tenuto ben stretto tra i denti il respiro per non far sapere i tormenti. Ho sentito il rumore del cielo diventare ogni giorno più grande. Ho copiato il frastuono che fanno anche gli alberi quando la vita è ingombrante. Ho ingoiato il sudore del mare indossando le nuvole grigie. Ho capito che tutto appartiene al resto che manca, non solo se esiste. Vivere non è abbastanza, se non c'è distanza che non ti permetta di desiderare. Perdersi per poi riprendersi, non è dividersi, siamo sostanza che non può sparire. Ho strappato le ali dai sogni per cadere ogni volta sui tetti. Preferisco restare coi gatti sul mondo che tanto comunque ritorni. E ti accorgi che quello che senti ha radice nel posto dei santi, ma tradotto nei gesti dell'uomo che sbaglia ogni volta si torna perdenti. Ho imitato le nuove stagioni per cambiare la pelle dei giorni. Ho coperto ogni singola parte di pelle del corpo con petali e fiori. Ho chiamato per nome quei santi, troppo comodi, troppo distanti. Li ho convinti ad avere paura di quelli che giocano a fare i potenti. Vivere non è abbastanza se non c'è distanza che non ti permetta di desiderare. Perdersi per poi riprendersi, non è dividersi, siamo sostanza che non può sparire. Vivere non è abbastanza se non c'è una danza che non ti convinca di poter volare. Liberi senza rinchiudersi, tenti da rendersi a questa stanza che non sa dormire. Mi sono accorto proprio adesso che non ammuri quest'inverno, dagli occhi passa solo vento e porta via con sé il rimpianto di un cielo che non si è più spento. Illudimi che adesso posso. Convinta di poter volare, liberi senza rinchiudersi e fino a rendersi a questa stanza che non sa dormire, a questa stanza che non sa dormire, in questa stanza.